America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Una giornata più tranquilla a Wall Street. Vi avevo anticipato ieri che gli operatori americani avrebbero preso bene l'idea che Mario Monti potesse diventare presidente del Consiglio in un nuovo governo, che potessero prendere bene l'idea che ci fosse un passaggio dei poteri accelerato, appena pochi giorni e non due settimane come si temeva all'inizio. Dunque il Dow Jones è aumentato ieri dello 0,96%, gli indici di borsa in generale sono andati bene. La lente di ingrandimento a questo punto è su quel che potrà fare un nuovo governo italiano. Ovviamente l'idea che possa essere Monti prevale, e devo dirvi che parlando con gli operatori qui a New York, con operatori finanziari ma anche con banchieri, ho percepito come la sensazione di maggiore credibilità per un'azione efficace di un nuovo governo nell'affrontare una situazione che resta comunque difficile è attribuita appunto a un governo guidato da Mario Monti. Un paio di mesi fa sono stato a Washington, dove c'era l'associazione di avvocati che lavorano nel settore dell'antitrust, una importante associazione di avvocati americana. Ebbene, hanno dato per la prima volta il premio a uno straniero e lo hanno dato appunto a Mario Monti. Quindi questo vi può dare una misura di quanto la figura di Monti negli Stati Uniti a livello internazionale sia rispettata e sia apprezzata. E dunque questo è uno degli elementi essenziali che spinge i mercati e che ha dato questa ventata di ottimismo all'idea che possa davvero essere lui a guidare il nuovo governo italiano. It's three agencies of government when I get there that are gone. Commerce, education and the what's the third one there? Let's see. EPA? EPA, there you go. No, again. Is EPA the one you were talking about? Or? No, sir. No, sir. The education, commerce, and let's see. I can't. The third one I can't. Sorry. Oops. Avete sentito il balbettio di Rick Perry, governatore del Texas? L'ho detto più volte, secondo me è fuori campagna elettorale, ma insiste, continuerà a restarci e a ogni dibattito, ma può sembrare impossibile, ma ogni dibattito riesce a fare una gaffe che è quasi più grossa di quella che ha fatto prima. Questa, devo dire, le batte tutte, perché non è che avesse dato una lista di 30 agenzie, aveva detto io voglio tagliare 3 agenzie governative, 3 ministeri, quello per l'istruzione, quello per il commercio, e poi si è bloccato e non si ricordava la terza. Dico, appunto, se fossero state 26, magari uno poteva anche così pensare, vabbè, sì, una se l'è dimenticata, ma su 3 te ne dimentichi una. Abbiamo saputo poi che doveva essere l'energia. Allora che è successo? Che gli altri candidati hanno cominciato a prenderlo anche un po' in giro, per cui Ron Paul, a cui lui si rivolgeva e poi è rimasto con gli occhi così spalancati a guardarlo, dice, ah, non me la ricordo, non me la ricordo la terza. Ron Paul a quel punto gli ha detto, ma forse era la EPA, cioè l'Agenzia for Environmental Protection Agency, l'agenzia ambientale. E Perry sì, si è subito ringalluzzito, sì sì, dice la EPA. E poi malefico l'intervistatore ha detto, ma governatore Perry, lei è sicuro che quella sia davvero la terza agenzia? E a quel punto, di nuovo paralizzato, Perry ha detto, no, dice, non era la EPA, ma se la ricorda la terza agenzia o no? E quello alla fine dice, no, purtroppo non me la ricordo. Ecco, devo dire, una figura di questo genere è straordinariamente imbarazzante. Il dibattito presidenziale di ieri doveva servire, secondo Politico, a chiarire un po' il campo, a consentire ad alcuni che insomma non andranno da nessuna parte di ritirarsi. Fra questi abbiamo per esempio l'ambasciatore Huntsman, l'ex governatore dello Utah, e abbiamo anche Rick Santorum. Sono ormai personaggi che sono scivolati in secondo piano. Perry poteva essere un personaggio che, nonostante le sue gaffe, poteva tenere, perché ha delle forti riserve di cassa. Però ecco, dopo questa gaffe, devo dire, alla fine il dibattito di ieri è stato caratterizzato da questa sua gaffe e da questo suo problema. Ma vediamo che cosa è successo con gli altri, perché ci sono stati un paio di momenti interessanti. Here we're focusing on character and on judgment. You've been a CEO. Yes. The American people deserve better than someone being tried in a court of public opinion based on unfounded accusation. For every one person that comes forward with a false accusation, there are thousands who would say none of that sort of activity ever came from Herman Cain. L'altro grande protagonista di questo dibattito repubblicano dell'altra sera è stato Herman Cain, il candidato afroamericano, l'ex amministratore delegato della Godfather Pizza. E beh, insomma, Cain è stato attaccato per la famosa storia delle molestie sessuali. Non è che ci sia stato un riferimento diretto, però sia la Bartiromo, una delle conduttrici del dibattito, che la Michelle Bachmann hanno messo in dubbio la trasparenza del suo carattere. Come potrai guidare gli Stati Uniti se il tuo carattere non è cristallino? Ebbene, Cain ha risposto di nuovo da grande maestro, ha negato di aver mai commesso molestie sessuali, ha detto che c'è in corso un character assassination contro di lui e che lui sarebbe il primo a ritirarsi se ci fossero dei problemi, però il suo carattere è assolutamente integro e le accuse sono false. Lo avete sentito, lo ha detto con una certa forza. Poi c'è stato un piccolo twist, un piccolo colpo di scena, perché hanno subito chiesto a Mitt Romney. Mitt Romney sente il fiato di Herman Cain alle spalle, perché quello sta avanzando, e gli hanno chiesto: ma Mitt Romney, ma lei cosa pensa del carattere di Cain? Lei condivide l'idea che possono esserci dei problemi? E con un tocco geniale Romney ha detto: assolutamente no, questo è un problema che riguarda Cain, ha già detto quello che doveva dire, non mi sembra che sia io a dover aggiungere altro. Perché è geniale? Beh, perché è riuscito, così, prendendo le distanze, non raccogliendo la provocazione per attaccare Cain, a ingraziarsi quell'elettorato di destra che fa capo ai Tea Parties, che simpatizza con Cain, che a questo punto probabilmente gliene perdona molte. Devo dire che di nuovo Mitt Romney è emerso come il candidato numero uno, bravissimo, non ne ha sbagliate una finora, non ha concorrenti. Mi sembrerebbe davvero strano che ai primi appuntamenti elettorali potesse emergere qualcuno diverso da lui per contendere la nomination repubblicana. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter @MarioPlatero, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Il 6 dicembre uscirà El Camino, l'ultimo disco dei Black Keys. È il settimo album per questo duo dell'Ohio che dal debutto del 2002 non si è mai fermato. The Black Keys, Lonely Boy, ragazzo solitario, che è poi quello che deve sentirsi quest'oggi Rick Perry. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì, speriamo, con un nuovo governo. Goodbye and get going. America 24.